affiderò le mie parole al mare del tempo che le consumi un po'. Forse cadrò, ma sempre e comunque in piedi mi rialzerò. E tu che non sai più niente di noi, tu che di me non hai capito mai, che sono qui da sempre, ti sento vicino anche adesso che non ci sei. Tu che non hai più niente di noi, tu che mi dai assenza non lo sai, che gli occhi si abituano a tutto e i piedi si alzano in volo. Da solo.